Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io penso che se va bene contadina, se va bene operaia, se va bene infermiera, e dunque accettiamo la declinazione al femminile di una occupazione, deve poter andare bene anche quando si tratta di amministratrice delegata, di quando si tratta di sindaca, quando si tratta di ministra. Perché? Perché l'Accademia della Crusca, che è la più importante istituzione linguistica del nostro paese, ci dice che non farlo è un errore grammaticale. Ogni ruolo va declinato al maschile e al femminile. E come darle torto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, alla presidente Boldrini? È una questione di equità, di giustizia. E naturalmente, se no, altrimenti c'è una asimmetria semantica, cioè se ci sono le professioni contadina, cameriere, eccetera, considerate tra virgolette umili, le altre non si vede perché quelle più importanti non debbano essere declinate al femminile. Dopodiché, noi ci concentreremo, come sempre, essendo questo il venerdì, sul bilancio della politica di questa settimana. Ce ne sono moltissimi di argomenti. Fra gli ultimi, ancora questa confusione totale, si può dire, del centrodestra per la candidatura a Roma, perché poco fa in serata Berlusconi, da un convegno a Roma, ha detto ho parlato con Salvini, ormai abbiamo fatto l'accordo, è Bertolaso il nostro candidato ufficiale. Poi poco dopo arriva, sempre poco fa praticamente, una nota ufficiale del partito della Lega che dice Bertolaso non è il nostro candidato, fino alle primarie che si faranno a metà marzo noi non abbiamo un candidato per Roma. Insomma, quindi ne avremo da chiacchierare su questo argomento. Poi ci occuperemo anche di una nuova udienza al processo per l'omicidio di Chiara Gambirasio, perché oggi era un'udienza importante. Per la prima volta parlava l'unico imputato, che è Massimo Bossetti. Poi ne parleremo con un cronista che ha seguito tutte le udienze del processo finora. E naturalmente, come non chiederci che tempo farà per questo fine settimana? Non credo che ci siano delle buone notizie, tanto per cambiare. Invece, l'argomento che vi sottopongo questa sera per le vostre riflessioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia ai messaggi al 349-238-6666, può sembrarvi leggero, in realtà poi fa parte della nostra tradizione, della nostra cultura, della nostra identità, e se ne parla a livello internazionale. La pizza, si è deciso, l'Italia ha deciso di candidarla nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, perché pensate che anche la lirica c'è stata soffiata praticamente dalla Cina, che ha messo il suo brevetto quando è stato 7 anni fa, l'iscrizione dell'opera lirica della tradizione tibetana passata e non la nostra, e adesso anche gli Stati Uniti cercavano invece di promuovere la loro di pizza, American style, e quindi se non ci muoviamo prima, vedete che ci sono robe più importanti di quello che può sembrare. Che ne pensate di questa candidatura della pizza come patrimonio dell'umanità? Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. Io direi che intanto vi riassumo come sempre la giornata. Libia, liberi 2 tecnici italiani, potrebbero rientrare in Italia a breve. La famiglia di uno dei colleghi uccisi chiede spiegazioni. L'emergenza migranti, il primo ministro greco Tsipras attacca, la chiusura delle frontiere distrugge l'Europa. In Svizzera, la Svizzera presenta un piano per limitare gli immigrati dall'Unione Europea dal 2017. Brasile, nello scandalo Petrobras, contestate tangenti all'ex presidente Lula. Il processo per l'omicidio di Chiara, parla l'imputato Massimo Bossetti, dice: non ho mai conosciuto quella ragazza, in questa vicenda hanno mentito tutti. Amministrative, domenica le primarie del centro-sinistra, e nel centro-destra Berlusconi assicura di aver trovato un accordo con Salvini su Bertolaso, ma lui smentisce. Reggia di Caserta, i sindacati protestano contro un nuovo direttore perché lavora troppo. Renzi replica: siete ridicoli, è finita la pacchia. E la leader della CGIL Camusso commenta: hanno sbagliato, lo riconoscono. Pizza, l'Italia la candida patrimonio dell'umanità. E per il calcio, anticipo di Serie A Roma-Fiorentina guardando la Champions League. Partiamo quindi dalla Libia, dalla buona notizia, dopo quella dolorosa di ieri, della liberazione degli altri 2 tecnici italiani ostaggi nel paese nordafricano per 8 mesi. Sono ancora in mano della polizia libica, non sono ancora, diciamo, presso nostri apparati. Così il vicepresidente del Copasir Giuseppe Esposito parla della liberazione di Gino Policardo e Filippo Calcagno, i 2 operai della Bonatti rapiti il 20 luglio nella zona di Melità, a 60 km da Tripoli. Stanno bene dunque e presto, probabilmente già domani, rientreranno in Italia. La conferma anche dallo stesso Policardo in un messaggio video. Sono qui con il mio collega Filippo Calcagno. Siamo in un posto sicuro, in un posto di polizia qui in Libia, stiamo bene e speriamo di tornare urgentemente in Italia. I due tecnici erano stati rapiti assieme a Salvatore Failla e Fausto Piano, che invece sono stati uccisi in uno scontro a fuoco tra fazioni rivali. Ma sia sull'uccisione che sulla liberazione dei quattro dipendenti dell'azienda parmigiana impiegata nella costruzione di impianti petroliferi per conto di Eni non vi è ancora alcuna certezza. Le informazioni sulla dinamica sono ancora confuse. Il sindaco della città libica, Hussein al-Zawadi, ha detto che a liberare gli italiani è stato un blitz delle forze di sicurezza. Una volta rientrati in Italia, i due tecnici verranno sentiti dal magistrato romano Sergio Colaiocco, che indaga per la procura sulla vicenda. Stando alle prime informazioni, i due erano stati abbandonati da 7 giorni senza acqua né cibo nella cantina di una famiglia di origine marocchina che è stata fermata e viene interrogata in queste ore. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sentiamo come è stata accolta la liberazione dalla politica italiana. Mondo politico che si interroga sulle ultime convulse 24 ore, c'è allora sì il sollievo per chi è in salvo, ma anche tanti dubbi per chi non ce l'ha fatta. Da qui la richiesta al governo di larga parte del Parlamento perché riferisca alle Camere, così Tofalo, 5 Stelle. L'unico luogo democratico atto a far capire ai cittadini italiani cosa sta avvenendo in Libia e cosa il governo ha intenzione di fare. Critico anche Brunetta, che parla di confusione ed opacità da parte del governo Renzi, ma 5 Stelle, Forza Italia, Lega e Sinistra Italiana chiedono che Palazzo Chigi riferisca anche sul probabile coinvolgimento del nostro paese in Libia. Un intervento militare di terra non avrebbe senso, dice Maroni, sarebbe un Vietnam, aggiunge Di Battista. Mancano i presupposti per un intervento, commenta la presidente della Camera Boldrini. Ci dovrà essere un governo di unità nazionale, un governo che chieda poi un intervento, quindi al momento diciamo che mancano i presupposti. L'instabilità della Libia non è positiva per la nostra sicurezza, spiega però il ministro dell'Interno Alfano. Da Palazzo Chigi fanno sapere quindi che sarà il ministro Gentiloni a riferire il prossimo mercoledì. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso l'emergenza migranti, perché il Presidente del Consiglio europeo Tusk, nella lettera di invito inviata ai 28 leader comunitari, chiede di tornare all'applicazione delle regole di Schengen, quindi l'accordo di libera circolazione delle persone, mettendo fine alla politica di lasciar passare però le ondate migratorie. Questo sarà il primo obiettivo del vertice informale straordinario che si terrà lunedì prossimo a Bruxelles. Il tutto mentre il primo ministro greco Tsipras attacca la chiusura delle frontiere, distrugge l'Europa. Rispetteremo l'impegno di accogliere 30.000 migranti nei prossimi 2 anni. François Hollande ribadisce gli impegni transalpini nel giorno in cui la Commissione europea lancia l'ultimo salvagente per Schengen. Hollande si è riunito all'Eliseo con la cancelliera Merkel in vista del cruciale vertice di lunedì tra Europa e Turchia, nel quale si proverà a chiudere definitivamente la crisi profughi sulla rotta egeo-balcanica. Il nostro obiettivo è rimettere in ordine Schengen, ha detto Hollande. Da parte sua la Merkel ha affrontato la delicata questione della cooperazione con Ankara. Al summit di lunedì ci informeremo sulla situazione dei migranti sul territorio turco, di cosa sia stato fatto per arginare l'immigrazione illegale. Entrambi hanno infine osservato progressi sulla causa scatenante dell'emergenza migranti, il conflitto in Siria. We are presenting a roadmap towards a return. Proprio in quelle ore il commissario europeo agli affari interni Avramopoulos rendeva nota l'attesa roadmap per ripristinare lo spazio Schengen. Il ritorno alla normalità senza alcun controllo interno alle frontiere è previsto entro dicembre, se le condizioni generali lo permetteranno. Inoltre Bruxelles presenterà il 16 marzo la proposta di riforma del regolamento di Dublino per i richiedenti asilo. Secondo Eurostat, lo scorso anno è stato record assoluto per le richieste d'asilo presentate in Europa, oltre 1.200.000. Intanto il premier ellenico Tsipras attacca: la chiusura delle frontiere sta distruggendo l'Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il governo svizzero ha presentato un piano per porre limiti all'immigrazione di cittadini dai paesi europei, però dal 9 febbraio 2017, quindi tra un anno, per dare seguito al risultato di quel referendum, vi ricordate, di 2 anni fa, con cui gli svizzeri hanno votato contro l'immigrazione di massa. In particolare il governo svizzero propone di fissare ogni anno un limite al numero di cittadini europei che possono andare a vivere e a lavorare in Svizzera. Oltre, scatterà una sorta di clausola di salvaguardia unilaterale con quote vincolanti anche per i frontalieri. Adesso ci spostiamo in Brasile, dove la giornata è stata segnata dalle notizie sull'ex presidente Lula, coinvolto in vicende giudiziarie legate alla corruzione. Non ho nulla da temere, dice Lula, perché non ho fatto niente di male. Corruzione politica e crisi economica. Un binomio micidiale per il Brasile di Dilma Rousseff. L'ex presidente brasiliano Lula è stato prelevato da casa e interrogato per 3 ore, infine rilasciato nell'ambito dell'inchiesta su Petrobras, il colosso energetico brasiliano. Secondo il PM brasiliano ci sono prove di tangenti, scontri tra manifestanti sotto casa di Lula, 3 fermi. Il Partito dei Lavoratori, il nostro ex presidente, è un prigioniero politico. L'inchiesta prende il nome del colosso petrolifero statale che ha distribuito oltre 2 miliardi di dollari in mazzette. Parrebbe che anche il Partito dei Lavoratori, da sempre quello di Lula, ne abbia beneficiato. Un clima pesante quello politico brasiliano, a pochi mesi dall'inizio delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Roberto Darina, Radio 24, Sole 24 Ore. Il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Oggi ha parlato l'imputato Massimo Bossetti, è stata la prima volta durante questo processo. Non ho mai conosciuto quella ragazza e in questa vicenda, dice, hanno mentito tutti. E poi, come avevo anticipato, ne parleremo più tardi con Effetto Notte, con un cronista che ha seguito tutte le udienze. Per la politica, conto alla rovescia per le primarie del centrosinistra, praticamente del PD. Mancano poche ore all'appuntamento di domenica prossima, quando dalle 8 alle 22, salve eccezioni locali, si terranno le competizioni per la scelta del candidato sindaco in vista delle elezioni di giugno. Si terranno a Napoli, a Roma, per quanto riguarda la Campania, Aversa, Battipaglia, oltre che Napoli, Benevento, poi Trieste, Bolzano, Grosseto, Cascina, in Toscana, San Benedetto del Tronto, nelle Marche. A Milano, lo sapete, la corsa si è svolta in anticipo il 6-7 febbraio, ne è uscito vincitore Giuseppe Sala. Niente primarie del centrosinistra, invece in altri importanti comuni il voto di primavera come Bologna, Cagliari e Torino, dove si presentano praticamente i sindaci uscenti. Per quanto riguarda il centrodestra, gli alleati paiono, vi dicevo prima, in alto mare, perché in serata Berlusconi ha fatto sapere di aver finalmente trovato l'accordo con Salvini per candidare Bertolaso, ma poco dopo una nota dell'ufficio stampa della Lega diceva: noi non abbiamo, ha smentito praticamente, Bertolaso non è il nostro candidato. Comunque ci torneremo tra poco. Unioni Civili, dopo la manifestazione delle 100 piazze dello scorso 23 gennaio che ha visto scendere in piazza migliaia di attivisti LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e simpatizzanti a sostegno delle unioni civili con lo slogan Sveglia Italia, le associazioni del movimento fanno sapere che chiamano a raccolta gli italiani una volta ancora domani a Roma, 5 marzo a Piazza del Popolo. E poi questa vicenda dei sindacati che si sono ribellati contro il direttore della Reggia di Caserta. Lavora troppo, sta in ufficio anche di sera e nel fine settimana. Un comportamento che mette a rischio l'intera struttura, denunciano i sindacati al ministro della cultura Franceschini. Su Facebook c'è stato il commento di Renzi, che ha scritto: l'accusa sembra ridicola, in effetti lo è. I sindacati che si lamentano del direttore scelto dal governo con un bando internazionale dovrebbero rendersi conto che il vento è cambiato e la pacchia è finita. E bisogna dire che è intervenuta anche la leader della CGIL e Susanna Camusso, ha bacchettato i sindacati, ha detto: hanno sbagliato, lo riconoscano. E poi dall'estero, questo rapporto dell'Oxfam con nel 2016 oltre 60 milioni di persone nel mondo, nel 2016, di cui 50 milioni in Africa, saranno colpite da fame e povertà a causa della siccità, del crollo dei raccolti e della scomparsa di pascoli provocati da El Niño, il fenomeno naturale che riscalda le correnti del Pacifico tropicale. Lo sottolinea appunto l'organizzazione internazionale Oxfam, che lancia un appello alla comunità internazionale per intervenire in aiuto delle popolazioni più vulnerabili. Dagli Stati Uniti, diciamo che la campagna elettorale, almeno da parte repubblicana, prende una piega non molto lusinghiera. Donald Trump ci tiene ad assicurare i suoi potenziali elettori di avere tutte le carte in regola per fare il presidente, comprese quelle misure, dice, che abitualmente non vengono discusse nei comizi politici ma solo al bar. Come riporta la stampa statunitense, Trump ha infatti preso assai poco positivamente, sportivamente, un commento del rivale per la nomination repubblicana Marco Rubio, che durante un comizio in Virginia avrebbe osservato come le mani del tycoon fossero piccole e dunque, se sono piccole, deve essere piccolo anche qualcos'altro. Ve lo garantisco, dice Trump, non ci sono problemi, ve lo garantisco. Insomma, questi sono, diciamo, il livello della campagna, così, a volte, che prende tra uomini, tra certi uomini. Corea del Nord, altro macismo, è quello di Kim Jong-un, che brandisce l'arma nucleare invitando i suoi soldati a tenerla pronta per essere usata in ogni momento dopo l'onta delle nuove sanzioni contro la Corea del Nord decise mercoledì all'unanimità dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Per quanto riguarda l'Italia, invece, vi dicevo che l'Italia candida la pizza a patrimonio dell'umanità, c'è stato il via libera dalla Commissione Nazionale perché dice è un'arte che ci rappresenta, che rappresenta la nostra identità, la nostra cultura. Per il calcio, anticipo di Serie A, sono in campo Roma-Fiorentina e la Roma già conduce per 2-0. Mentre la notizia extra è questa, lo yogurt è alleato delle donne contro la pressione. Lo yogurt sembra un prezioso alleato appunto delle donne che hanno la pressione alta, anche per prevenirla. Mangiarlo 5 volte a settimana riduce il rischio di sviluppare ipertensione del 20%. Lo dimostra uno studio della Boston University School of Medicine presentato a una conferenza dell'American Heart Association. Per lo studio sono stati presi in esame dati relativi a 3 vasti studi e quindi è una cosa piuttosto seria. Poi a chi piace lo yogurt anche meglio. A voi piace la pizza? State scrivendo i vostri messaggi a proposito di questa candidatura della pizza italiana a patrimonio dell'umanità, in modo che non ce lo scippi questa specie di Oscar di brevetto gli Stati Uniti, come è successo per la lirica con la Cina. Roberto scrive sulla pagina Facebook: bene la pizza, anche se i pizzaioli sono quasi totalmente egiziani, uno dei pochi vanti italiani, buon lavoro stasera, pizzata, sei invitata naturalmente, grazie. Verrò diciamo verso mezzanotte e mezza. Poi Cristiano: vado su una aggancio preciso, oggi è il compleanno di Antonio Vivaldi, vabbè facciamo gli auguri, diciamo tempo un po' passato, Cristiano. Poi Giorgio: non capisco cosa si intenda con USA quando si parla di pizza, davvero, cioè di Stati Uniti, Giorgio, eppure sai che lì dicono che la pizza, qualcuno, ecco per esempio Marco dice, ma la pizza non l'hanno inventata gli americani, non so se è una sottile ironia Marco, comunque se senti i napoletani credo che potrebbero aspettarti sotto casa. Bene, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Pagina Facebook di Effetto Notte. Ricordo a certi ascoltatori che presidente è un participio presente, quindi va bene per dire il presidente e la presidente. A tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E la stavo in effetti guardando la notizia di poco fa, una notizia sportiva, un'impresa di un azzurro, grande impresa del 19enne azzurro Filippo Ganna, che ai mondiali di ciclismo su pista a Londra ha vinto l'oro nell'inseguimento individuale piemontese, questo ragazzo, questo campione. Ecco, una buona notizia a proposito di eccellenze, perché vi sto chiedendo, qualcuno ha scritto un messaggio, sì, poco fa, vi sto chiedendo della pizza che è stata ufficialmente candidata dall'Italia come patrimonio dell'umanità. L'UNESCO sarà presentata, poi ci sarà tutta una procedura lunga, insomma è per evitare che qualcun altro si presenti con la pizza fatta made in Stati Uniti o da qualche altra parte, come è stato per la lirica che è diventata la lirica praticamente del Tibet. 349-238-6666 per le vostre riflessioni sulla pizza, sembra un argomento leggero ma è pesante a seconda dell'impasto naturalmente. Pagina Facebook di Effetto Notte. E poi Stefano da Milano che dice: questa campagna per le elezioni americane è penosa. Beh, rispetto sì a quello che si leggeva prima delle varie questioni di misure fra gli americani, direi. E poi dice un altro ascoltatore: gli americani al massimo possono candidare la pizza pie, una specie di torta. Allora vi ricordo quali sono tra poco le notizie più importanti e poi cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti. Vediamo se ritrovo quella notizia che ho visto poco fa. Roma, Berlusconi ha il gazebo solo col nome di Bertolaso, continua questo botta e risposta praticamente con Salvini perché non riescono a trovare l'accordo e di questo poi parleremo dopo questo primo argomento, ma andiamo su tutti i titoli. Liberi 2 italiani in Libia, siamo psicologicamente devastati ma stiamo bene, la famiglia di uno degli ostaggi uccisi chiede però spiegazioni e Renzi dice bisogna rimanere cauti. Il PIL italiano è cresciuto dello 0,1% nel quarto trimestre. Scandalo Petrobras in Brasile, contestate le tangenti all'ex presidente Lula, dopo l'interrogatorio la folla lo acclama davanti alla sede del partito. Schengen, c'è la roadmap, quindi la strada da seguire dell'Unione Europea, bisogna presto tornare alla normalità. Poi Renzi e i sindacati sulla reggia di Caserta, i sindacati si erano lamentati che il nuovo direttore lavora troppo e dice Renzi su Facebook la pacchia è finita. E interviene anche la leader della CGIL Camusso che dice in questo caso hanno sbagliato i sindacati, lo devono riconoscere. Processo Iara, Bossetti in aula: non ho mai conosciuto quella ragazza, dice prima di me hanno mentito tutti. E poi anticipo di Serie A, Roma-Fiorentina, per il momento conduce sempre la Roma 2-0. Ora naturalmente soffermiamoci su una notizia importante che è arrivata oggi a proposito della vicenda dei tecnici italiani in Libia. All'indomani del blitz, o comunque insomma di questo conflitto a fuoco, ancora non sono chiare del tutto le circostanze in cui sono rimasti purtroppo uccisi due tecnici italiani, Fausto Piano e Salvatore Failla, due dei quattro dipendenti italiani della ditta Bonatti di Parma, che erano stati rapiti in Libia nel luglio del 2015. Oggi è stata ufficializzata questa buona notizia per gli altri due colleghi, Filippo Calcagno e Gino Pollicardo, che sono vivi, che presto torneranno in Italia, qualcuno dice addirittura domani, come è stato poi mostrato in un video dove loro parlavano. Si trovano adesso sotto tutela del Consiglio Militare di Sabrata, sono in buona salute e ieri, come tante altre volte, abbiamo ricordato e analizzato un po' la situazione di profondo caos che c'è in Libia, una Libia politicamente spaccata in due, con due governi, uno a Tripoli, l'altro a Tobruk, attraversata da milizie armate, jihadisti che con l'ISIS vogliono guadagnare man mano, estendersi, guadagnare terreni da est a ovest, insomma una situazione difficilissima. E, tra l'altro, nel pomeriggio si è fatto sentire l'avvocato dei familiari di uno dei due tecnici uccisi, di Salvatore Failla, che dice: dopo tante reticenze, segreti, misteri, ora noi, la famiglia pretende spiegazioni. Come è stato possibile che appena 24 ore dopo la morte di Salvatore Failla e Fausto Piano sono stati liberati gli altri due connazionali, dice il legale della famiglia. In più si chiede se la ditta Bonatti abbia una qualche responsabilità, domande a cui naturalmente noi in questo momento non possiamo rispondere. Ma sulla situazione libica chiederei l'intervento di Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a voi. Allora, facciamo sentire brevemente gli italiani rapiti che cosa hanno detto in questo video. Sono Gino Pollicardo e sono qui con il mio collega Filippo Calcagno. E siamo in un posto sicuro, in un posto di polizia qui in Libia, e stiamo bene e speriamo di tornare urgentemente in Italia perché abbiamo bisogno di ritrovare la nostra famiglia. Dice che ci stanno trattando bene. E poi la Presidente della Camera Boldrini ha detto: in questo momento non ci sono i presupposti per intervenire perché, come dicono molti, prima ci deve essere un governo unitario in Libia e poi si può. Però Gerardo Pelosi, in realtà Stucchi, Presidente del COPASIR, del Comitato Parlamentare per i Servizi Segreti, ha detto: qui bisogna intervenire il prima possibile perché più tardi si fa, più la situazione potrebbe essere compromessa. E poi bisogna dire che spesso queste operazioni avvengono in via segreta, no? Senza bisogno dell'approvazione del Parlamento, quindi cosa pensi? Più tempo passa, più tutto diventa difficile. Stucchi è un po' una voce fuori dal coro. In realtà tutti, da due ex premier che si trovano su fronti opposti, come Romano Prodi e Silvio Berlusconi, sono contrarissimi a qualunque tipo di intervento non coordinato dalle Nazioni Unite, non richiesto da un governo di unità nazionale. Qual è la situazione? Lunedì a Tobruk è prevista una nuova sessione, l'ennesima, del Parlamento, l'unico riconosciuto dalla comunità internazionale, che finora non si è potuto tenere questo dibattito sul nuovo governo e riunire per serie di intimidazioni e di violenze di cui è stato teatro. Allora, qual è stata l'idea dell'inviato dell'ONU per la Libia, Martin Kobler, il tedesco Martin Kobler, su proposta anche degli italiani, di utilizzare la firma di sostegno a questo nuovo governo presieduto da Fayez al-Sarraj e utilizzare quelle firme per insediare comunque un governo a Tripoli. La situazione, come si è visto, Sabrata non è molto distante da Tripoli, lì siamo in piena anarchia istituzionale. E non è facile ovviamente creare una cornice di sicurezza adeguata. Il consigliere militare di Kobler è l'italiano, il generale Paolo Serra, che secondo qualcuno potrebbe essere anche il candidato migliore per guidare la missione internazionale delle Nazioni Unite. Questo generale Serra sta trattando con le milizie locali, con tutti i soggetti che hanno in qualche modo, c'è un grandissimo numero di persone armate che si spostano da una milizia all'altra, non c'è solo l'ISIS, quindi ci troviamo di fronte al caos più totale, per cercare di trovare un accordo che garantisca l'insediamento di questo governo. Solo dopo l'insediamento, ecco, è una questione temporale, cioè il governo si deve insediare e come primo atto chiedere l'intervento internazionale per la stabilizzazione del paese. A quel punto sì, allora anche Renzi, Prodi, Berlusconi, sicuramente anche il Presidente della Repubblica Mattarella, sono favorevoli a un intervento italiano, ma solo a quelle condizioni. Grazie Gerardo Pelosi. Ciao Gerardo. Grazie a te. Ora invece è tempo di fare il bilancio della politica italiana in senso stretto. Questa settimana entrano a buon titolo la prosecuzione della polemica sull'utero in affitto dopo le rivelazioni su Nicky Vendola, che è diventato padre grazie a una donna indonesiana in California, poi la richiesta sorpresa da parte del Movimento 5 Stelle di un referendum non sulla maternità, non confondiamo le cose, sulla maternità surrogata, ma sulla stepchild adoption, cioè sulle adozioni, su una norma che dovrebbe regolamentare le adozioni all'interno delle coppie dello stesso sesso. Poi ci sono le primarie del PD di questo fine settimana, di domenica. Annessa poi c'è la variabile Verdini, che inquieta molto la sinistra PD, ma anche fa gridare allo scandalo nell'opposizione. Variabile Verdini, tra l'altro, che ritorna anche con il suo carico di polemiche nell'approvazione che c'è stata del voto di fiducia al Senato sul reato di omicidio stradale. E dopodiché, accanto alle primarie del centrosinistra, naturalmente ci sono le candidature in genere per le amministrative, con la situazione sempre più confusa, vi dicevo, del centrodestra a Roma, poi l'acceso dibattito sui mutui e le rate non pagate dopo le quali la banca può mettere le mani sulla casa, la questione della Libia che però abbiamo appena affrontato. Ne parliamo con il nostro Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Fabrizio. Buonasera, ciao a tutti. Fabrizio, io allora passeremo subito. Un menù molto ricco anche questa settimana. Molto ricco, c'è anche la pizza se vuoi alla fine, perché sai che è candidata come patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità. Allora, io ti farei sentire, e poi dopo andiamo subito agli altri argomenti, un Di Maio di questa settimana che così un po' a sorpresa sulla questione delle adozioni alle coppie dello stesso sesso, con il PD che sta preparando una proposta di legge staccata da quella che è passata al Senato, che dovrebbe passare alla Camera, e Di Maio del Movimento 5 Stelle è uscito con questa idea del referendum. Io per le coppie omosessuali ho sempre detto che l'adozione sic et simpliciter, cioè una coppia omosessuale che decide di adottare un bambino, questo è un tema che per me va affrontato con un referendum popolare, perché oggi in un Parlamento con il maggior numero della storia di Volta Gabbana, in un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, con una serie di partiti che non esistevano neanche prima delle elezioni, la legittimazione di questo Parlamento è veramente minima. Allora, prima di passare al prossimo Di Maio, c'è un'altra voce che vorrei farti sentire di Di Maio. Oggi sulla stampa, sul quotidiano La Stampa, Jacopo Iacoboni ricordava che uno dei primi atti di rilevanza politica dei 5 Stelle, appena quando arrivarono in Parlamento, fu presentare una legge che proponeva varie modifiche al codice civile, tra le quali abolire il divieto di maternità surrogata anche per le coppie omosessuali, e oggi viene definito, diceva Di Maio, un supermercato, eccetera eccetera, e anche il matrimonio gay, non le unioni civili, ma c'era una proposta di legge del Movimento 5 Stelle sui matrimoni gay. Quindi dice Iacoboni, effettivamente uno strano cambiamento. Sentiamo Di Maio ancora questa settimana. Lì c'era un Senato che era pronto a votare, c'erano i numeri per votare il DDL sulle unioni civili. Lei dice e non si è voluto. Il Senato avrebbe deciso se la stepchild dovesse rimanere nella legge oppure no. E invece Renzi ha preferito fare l'accordo con Verdini ed Alfano e fare una legge al ribasso, tra l'altro con evidenti vizi di incostituzionalità, perché se tu alle unioni civili togli l'obbligo di fedeltà stai creando delle unioni che non hanno neanche la parvenza di un patto legato a dei sentimenti. Quello legato sembra, ad una coppia. Quindi al di là di questa cosa dell'obbligo di fedeltà di cui abbiamo già discusso, ma secondo te questo cambiamento rilevato anche appunto oggi sulla stampa è dovuto al fatto che probabilmente nel tempo dovevano mettere un po' insieme le idee, perché si sono formati come gruppo, come movimento, ma magari non omogeneo, non avevano ancora le idee chiare su certe questioni. Oppure, come dice Di Maio, è dovuto al fatto che Renzi al Senato ha preferito Verdini al Movimento 5 Stelle, quindi una specie di sgambetto, di vendetta, oppure hanno sentito il loro elettorato. Cosa è dovuto secondo te questo adesso annunciare il referendum? Che hanno ottenuto un comportamento abbastanza contraddittorio anche proprio nelle ultime settimane. È un comportamento che è derivato probabilmente da una parte dalla reazione davanti ai sondaggi, che comunque dicevano che davanti a questi temi gli italiani si dividevano, e in particolare sulla stepchild gli italiani avevano un parere molto spesso contrario, e quindi sono andati anche un po' dietro ai sondaggi. Poi un po' prevale secondo me l'atteggiamento comunque strettamente politico di cercare di mettere in difficoltà la maggioranza, di mettere in difficoltà il Presidente del Consiglio, un atteggiamento in qualche modo anche legittimo davanti al fatto che lo stesso partito del Presidente del Consiglio non era compatto poi su questi temi, per cui all'interno del Movimento 5 Stelle è passato il ragionamento: se il PD non è autosufficienti su questi temi, perché noi dobbiamo garantire la tenuta della maggioranza su questi temi, che comunque sono complicati e comunque il nostro elettorato non è compatto in una o nell'altra direzione. Da qui credo un oscillamento di atteggiamento che comunque non ha fatto bene al 5 Stelle, perché sicuramente da tutta questa vicenda non è uscito con un'immagine di chiarezza e di nitidezza davanti comunque al loro elettorato e davanti agli italiani in genere. Invece, per andare subito alle primarie che ci saranno domenica del centrosinistra, a trazione PD, come viene detto, sentiamo Giachetti, che si può dire è il principale candidato in queste primarie a Roma. Stiamo commentando una non notizia che è stata già smentita dai diretti interessati. Questo perché sia chiaro. Ha smentito l'appoggio di Verdini, perché sa che la polemica molto sulle primarie del centrosinistra, in particolare a Roma, è che i verdiniani sosterrebbero i candidati del PD, no? Ma guarda, in vista delle amministrative ci sono grandissime difficoltà sia sul fronte del centrosinistra sia sul fronte del centrodestra e di oggi l'ennesima polemica che divide Berlusconi e Salvini un continuo botte Roma, e risposta su Bertolaso. La dimostrazione di queste elezioni è che davvero siamo davanti a una crisi di tutti i partiti e delle coalizioni in questo momento in Italia molto forte. Non c'è la capacità di individuare un candidato all'interno dei partiti in nessuna realtà nelle grandi città italiane. A Milano, dove la preparazione delle elezioni con le primarie sul fronte del centro-sinistra, con la candidatura di Parisi sul fronte del centro-destra, è il luogo dove si sono individuate delle candidature credibili e dove le elezioni stanno andando avanti in maniera abbastanza ragionevole su entrambi i fronti. Però sono stati individuati due candidati che sono del tutto esterni ai partiti, sono dei manager, niente hanno a che fare con la storia dei partiti che li candidano. Altrove i partiti non riescono a individuare nessun tipo di figura in grado di rappresentare il partito, non ci sono esponenti dei partiti forti da candidare nelle grandi città. Questo è un segno di grande crisi nel sistema politico italiano e dei partiti, per cui nel centro-sinistra sì, c'è il caos su Roma, su Napoli, in molte realtà. Poi questo appoggio di Verdini sta creando il terrore di una scissione a sinistra o della formazione di liste che comunque sulla sinistra possano togliere voti decisivi ai candidati del centro-sinistra. Insomma, credo sia veramente la cartina di tornasole di un momento di difficoltà della politica italiana e dei suoi partiti in particolare. A proposito di difficoltà di accontentare l'uno e l'altro, di capire dove stare, ti faccio sentire Renzi. Sicuramente il ponte verrà fatto. Il quando, quindi basta con questo derby, il ponte certo che ci sarà prima o poi. L'importante è che prima, io mi sono molto pratico, mi scuserà il pragmatismo e la concretezza, prima portiamo a casa i risultati di opere incompiute. Ecco, questo lo chiamo il mostro di Loch Ness, no? Il ponte sullo stretto ogni tanto viene rievocato, come se riemergesse lì tra le brume, lo stretto. Come mai? Ma in questo devo dire, Renzi, è straordinario, perché qui veramente c'è la sua capacità di tenere un po' di cerchiobottismo, dici? Insomma, di tenere un elettorato che è molto diverso e di tenere il partito della nazione, no? Lo stiamo chiamando, ma insomma allargare i consensi ben oltre la sinistra, lo sappiamo, la posizione del centro-sinistra classica è quella che il ponte sullo stretto è una stupidaggine, è un favore probabilmente chissà quali interessi rossi. La posizione del centrodestra, che è assolutamente una priorità dell'Italia, lui tiene una posizione in cui tiene tutto insieme. Forse lo stesso, certo, si farà, però non si fa subito, perché sono priorità le opere, le incompiute, eccetera, e con questo ovviamente si rivolge poi al popolo della sinistra e mette d'accordo tutti. Che furbo, grazie Fabrizio Forché, buon fine settimana. Grazie a te, Roberta. Ciao Fabrizio. Chiedimi se sono felice live. Oh, mi raccomando, il 12 marzo segnatevi sull'agenda questa data, ci dovete seguire in un mondo a 24 zampe. Perché? Perché io, Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettiamo a Milano per Chiedimi se sono felice live, un altro evento fantastico esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia. In famiglia, perché il focus è la genitorialità di questo incontro. Quindi alle ore 15 ci vediamo con degli esperti educatori che faranno attività ludico-creative con i bambini. E subito dopo l'intervento di Igor Sibaldi e il mio sulla genitorialità. Vi aspettiamo a Milano all'Arena Civica Palazzina Appiani, sabato 12 marzo ore 15. Ciao! Correte, iscrivetevi su radio24.it, siete i nostri ospiti. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la conduttrice giusta, Roberta Giordano, sempre con voi, sino alle 22. Stavo guardando i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. C'è qualcuno che è veramente entusiasta di questa candidatura che l'Italia fa della propria pizza, della pizza italiana, come patrimonio mondiale dell'umanità presso l'UNESCO. E dice questo ascoltatore: viva la pizza, con 3.000 punti esclamativi. Questa è la più bella notizia degli ultimi anni. Viva la pizza, scrive al 349-238-6666. Poi ancora ne avevo visti parecchi, solo che poi si inframmezzano con altri che non c'entrano nulla sull'argomento di oggi. Per esempio Walter e Cristina addirittura dice: siamo commossi della candidatura della pizza, magia, vari punti esclamativi anche qui. Poi vediamo quest'altro messaggio: ci hanno già scippato, dice Bruno, ci hanno già scippato Meucci l'invenzione del telefono, ora a Meucci, certo, hanno scippato l'invenzione del telefono, ora la pizza è di Napoli, perché sapete che parrebbe che ci sia anche in corsa gli Stati Uniti, come per, vi dicevo prima, per l'opera lirica. Invece il Tibet sembrerebbe aver posto il proprio brevetto. Poi Nino sulla pagina Facebook, a proposito invece del discorso che facevamo prima sul Movimento 5 Stelle e sul fatto che, ricordava Iacoboni della Stampa, oggi sulla Stampa, quando si sono insediati in Parlamento avevano presentato una proposta di legge per levare il divieto alla maternità surrogata e per i matrimoni gay, e poi Di Maio aveva chiesto questo referendum questa settimana sulle adozioni. Dice Nino: Carmelo Bene affermava che la coerenza è la virtù degli imbecilli. Evidentemente gli imbecilli nel nostro Parlamento scarseggiano, chissà perché qualcosa non mi torna, dice Nino lucubrando fra sé e sé. Fra poco vi ricordo le notizie più importanti, voi continuate a scrivere le vostre riflessioni sulla pagina Facebook al 349-238-6666, anche qualcosa su WhatsApp che ogni tanto riesco a leggere ma arrivano piccoli piccoli. Dice Giorgio: idea tardiva ma giusta quella della pizza, è una delle tre parole italiane più usate nel mondo, bisognerebbe farlo anche con l'espresso. Sapete che poi è arrivato un colosso americano qui ormai in Italia, in particolare a Milano, con questi bicchieroni di plastica dove c'è una specie di caffè, poi io bevo solo il tè, quindi lo saprete voi se lo ritenete buono o meno buono. Adesso ci spostiamo su un altro importante argomento, ma prima vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Libia, liberi due tecnici italiani, potrebbero rientrare in Italia a breve. La famiglia di uno dei colleghi uccisi chiede spiegazioni. L'emergenza migranti, il primo ministro greco Tsipras attacca, la chiusura delle frontiere distrugge l'Europa e la Svizzera presenta un piano per limitare gli immigrati dall'Europa dal 2017. Brasile, nello scandalo Petrobras, contestate tangenti all'ex presidente Lula. Il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ne parleremo tra pochissimo, ha parlato l'imputato oggi Massimo Bossetti. Amministrative, domenica le primarie del centro-sinistra, nel centro-destra Berlusconi assicura di aver trovato un accordo con Salvini su Bertolaso, ma lui smentisce. Reggia di Caserta e i sindacati protestano contro il nuovo direttore perché lavora troppo. Renzi su Facebook dice: siete ridicoli, è finita la pacchia. La leader della CGIL commenta: hanno sbagliato, lo riconoscono. Pizza, si impasta la bocca con la pizza, l'Italia la candida al patrimonio dell'umanità. E per il calcio mi pare che la Roma sia 3-1 sulla Fiorentina nell'anticipo di Serie A. Saluto Vittorio Attanà, giornalista dell'Eco di Bergamo. Buonasera Vittorio, bentornato. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Oggi eri a un'importante udienza del processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, perché per la prima volta ha parlato Massimo Bossetti. Io lo ricordo di nuovo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non do mai niente per scontato: il delitto di Yara Gambirasio è quello della tredicenne di Brembate di Sopra, vicino Bergamo, che il 26 novembre 2010, dopo essere uscita dalla palestra di ginnastica artistica nella quale si allenava, scomparve nel nulla. Il suo corpo poi fu ritrovato tre mesi più tardi, il 26 febbraio 2011, in un campo tra le sterpaglie di Chignolo d'Isola, a 20 minuti da casa. Fu accertato che era stata seviziata e lasciata morire. Per questo delitto fu accusato, indagato dopo veramente mille incredibili ricerche sul DNA, ricerche molto avanzate. Massimo Giuseppe Bossetti, 44enne, carpentiere di Mapello, è in carcere dal 16 giugno 2014 per omicidio aggravato dalla crudeltà e dalle sevizie. Lui si è sempre detto innocente, però con questa prova del DNA gli inquirenti sono convinti che sia suo. Che cosa è successo oggi, Vittorio? in udienza. Oggi c'è stata la prima parte della deposizione di Bossetti, che proseguirà venerdì prossimo in un'udienza a Fiume, che si preannuncia un duello al calor bianco con il pubblico ministero. Oggi però, nonostante la deposizione non sia durata moltissimo, ci sono già stati dei grossi colpi di scena. Bossetti è apparso assolutamente combattivo, ha ribadito la sua innocenza e non solo, è andato oltre. Da accusato è divenuto accusatore e ha detto che tutti coloro che si sono seduti prima di lui sul banco dei testimoni, che hanno parlato dal microfono nell'aula del tribunale, hanno mentito tutti tranne i suoi consulenti. Quindi è un uomo solo contro il mondo, che cerca di smontare quella che giustamente tu definivi una prova che all'apparenza sembra veramente forte, scientifica, che è quella del DNA, a cui gli inquirenti sono arrivati dopo mille peripezie. Quindi tu dicevi ci sarà poi venerdì invece un interrogatorio più lungo, sempre sì, con Bossetti sì. Che parlerà. Assolutamente, perché oggi l'udienza è stata fagocitata da questioni tecniche e quindi l'interrogatorio è cominciato nel pomeriggio e si è concluso dopo un'oretta, quando ormai non c'era più tempo per proseguire. L'udienza è stata aggiornata a venerdì prossimo, quando si entrerà veramente nel vivo di tutti gli argomenti che sicuramente il pubblico ministero vorrà sottoporre a Bossetti, cercando di farlo cadere in contraddizione. Pensiamo alle navigazioni trovate sui computer di casa sua, mi riferisco ai contenuti di natura pornografica che sarebbero appunto attribuibili a lui secondo l'accusa. Anche se la moglie Marita la scorsa settimana diceva in un'udienza lo facevamo insieme, a volte lo facevo io, no? Non si capisce se effettivamente fosse così o per creare un alibi, giustificare il marito. Senti, lui oggi ha detto anche prima di me e dei miei difensori hanno mentito tutti. In particolare a cosa si riferiva? L'ha precisato? Si riferiva, tutto nasce da un episodio che sembra marginale, molto anche curioso. Bossetti, rispondendo a una domanda del pubblico ministero che chiedeva lei che strada fa per tornare a casa dal cantiere dopo la giornata lavorativa, e lui ha raccontato di percorrere abitualmente il tragitto che passa anche davanti al centro sportivo dove Yara si trovava quel maledetto giorno in cui scomparve. Perché, chiede il pubblico ministero, Bossetti risponde e dice ci passavo perché c'è un'edicola a cui mi fermavo tutte le sere per comprare le figurine ai miei figli. Il PM ha contestato, ha detto guardi che abbiamo sentito l'edicolante in udienza, e lui ha detto chiaramente che lei non era un cliente abituale, che si è ricordato del suo volto quando l'ha visto in televisione dopo l'arresto, ma sicuramente che non veniva tutte le sere, anzi che veniva al mattino. Bossetti ha detto no, sicuramente ha mentito, e poi ha esteso questa sua esternazione un pochino a tutte le testimonianze contro di lui, dicendo qui hanno mentito tutti. Vittorio, a questo punto ci sentiamo venerdì prossimo, allora ti posso già prenotare? Certo, volentieri, sarà un piacere. Grazie, buon lavoro Vittorio Attanà dell'Eco di Bergamo. Ciao Vittorio. Grazie a voi. Ciao. Intanto devo dire che ringrazio molto Antonio per il suo messaggio, e poi dice avvistato il mostro di Loch Ness nello stretto di Sicilia, la CE, che però è diventata ormai Unione Europea, Commissione Europea, invia sommozzatori esperti per creare milioni di euro, per cercare milioni di euro persi tra progetti vari e preventivi. Viva la pizza, tra parentesi, connection, scrive Antonio. Ringrazio Ennio per il suo messaggio, molto bello. Anche Fabio, ricambio il bacio, ci sentiamo un momento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E insieme alla pizza, che fine ha fatto il mandolino? Questa è la verità, la dice Mauro. Insomma, non troppo nel senso folcloristico, ma effettivamente la pizza è anche non solo gastronomia, identità e cultura, anche economia. E vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti di oggi. È la liberazione naturalmente di due tecnici italiani, anche se purtroppo gli altri due ostaggi sono stati uccisi ieri. Loro si dicono psicologicamente devastati, ma stanno bene di salute. Intanto la famiglia di uno degli ostaggi uccisi chiede spiegazioni. Il PIL italiano è cresciuto dello 0,1% nel quarto trimestre. Poi lo scandalo Petrobras in Brasile, contestate tangenti all'ex presidente Lula dopo l'interrogatorio, però la folla lo acclama davanti alla sede del partito. L'Unione Europea dà un indirizzo, una roadmap per un ritorno alla normalità entro dicembre per quanto riguarda l'accordo di Schengen della libera circolazione delle persone in Europa. Renzi e i sindacati sulla Reggia di Caserta, dice la pacchia è finita. I sindacati avevano accusato il neo direttore di lavorare troppo, su questo però è intervenuta bacchettando i sindacati anche la leader CGIL Camusso. E poi sull'omicidio di Iara abbiamo appena sentito dell'udienza di oggi, Bossetti in aula ha detto non ho mai conosciuto quella ragazza, hanno mentito tutti finora. Europa 24 notte. Il fronte più caldo della crisi migratoria in Europa resta concentrato sulla rotta Egea, cioè tra Turchia e Grecia, come sappiamo, ma la seconda rotta più battuta per approdare nel continente, quindi in Europa, resta quella del Mediterraneo centrale che va dalla Libia e porta verso la Sicilia. Anche questa rotta sta cambiando, almeno nella composizione dei migranti che tentano la traversata via mare e anche nei tempi di attraversamento. Come spiega Antonio Saccone, capo dell'analisi operativa dell'Agenzia Europea di Gestione delle Frontiere Frontex, lo ha intervistato Sergio Nava. Intanto l'anno scorso, nel 2015, abbiamo avuto numeri simili a quelli del 2014, che sono stati l'anno dell'esplosione del fenomeno migratorio su questa rotta. Nel 2014 e nel 2015 abbiamo avuto più o meno 150.000 persone, 1.000 più, 1.000 meno, questo è stato il fenomeno. Però cosa è successo? È successo che è cambiata la composizione dei flussi migratori. Nel 2014 la maggior parte delle persone che venivano su questa rotta dalla costa libica verso l'Italia erano in gran parte siriani, con un grosso numero di persone che venivano dalla Eritrea e dalla Somalia, dal Corno dell'Africa, e una piccola percentuale di persone che venivano dall'Africa subsahariana, no? Dai paesi dalla Mauritania, dalla Senegal, Ghana, Burkina Faso, eccetera. Nel 2015 i siriani sono spariti. I siriani hanno probabilmente ritenuto troppo pericoloso l'attraversamento di questo tratto di mare, hanno visto che, diciamo, le condizioni in cui venivano tenuti, la segregazione nelle barche, gli incidenti mortali che ci sono stati a mare, eccetera, erano un fattore per cui non valeva la pena di tentare di andare in Libia, e hanno trovato più opportuno andare nelle isole greche. Per cui le cose si sono polarizzate. Abbiamo avuto i siriani che andavano su lungo la rotta asiatica verso le isole greche, e la rotta della Libia è rimasta una rotta di esclusivo appannaggio di persone che venivano dall'Africa, dai paesi africani, con la prevalenza di eritrei e somali, ma anche sudanesi, insomma il Corno d'Africa da una parte, che rappresentano il gruppo più grande, e dall'altra parte questi paesi che ho elencato precedentemente, e in misura minore anche nordafricani, no? Marocchini, algerini, eccetera. E vediamo che tra le nazionalità dell'Africa subsahariana, la Nigeria e il Ghana sono i paesi che hanno avuto il maggior numero di persone. Con, tra l'altro, anche con una composizione di, per esempio, dalla Nigeria, molte donne giovani, e sospettiamo, abbiamo avuto già casi che sono sotto indagine, di persone collegate al traffico della prostituzione, poi in Italia o in altri paesi in Europa. Per cui qui è cambiato il tipo di flusso, e un'altra cosa che è cambiata è la velocità con la quale si riesce a raggiungere la costa libica dai paesi di origine, dal Corno d'Africa o dai paesi subsahariani, attraverso delle rotte che ormai sono diventate molto molto più veloci. Prima era un viaggio di mesi dai paesi diciamo dell'Africa subsahariana. Abbiamo storie di persone che impiegano 5-6 mesi, un anno, e che si trovano magari a dover lavorare per 3-4 mesi in regime di schiavitù per potersi pagare l'attraversamento del deserto e l'attraversamento di una successiva oasi o di un altro punto di snodo nella rotta. Mentre quest'anno abbiamo visto che molta gran parte delle persone riescono a farcela in una settimana o due. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Scrive Carlo tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, sto leggendo i vostri messaggi. Un alimento patrimonio dell'umanità, suona un po' strano, ma se serve a tutelare il Made in Italy e non fare figuracce, ben venga. Sappi Carlo che tra l'altro è proprio la prima volta che viene iscritta una tradizione connessa a una produzione alimentare all'UNESCO, quindi è la prima volta. La pizza sarebbe anche un po' una specie di record. Adesso non so di quali record ci parlerà Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo, è il fine settimana, Roberto. Non dirmi ancora che in fine settimana piove, no, guarda, perché allora c'è un complotto affinché piova nel fine settimana. Non volermene, ambasciatore, non porta pena, ma ci risiamo. Ma porta pioggia, Roberta. Non porta pena, ma porta pioggia. Guarda, purtroppo sì, domani sarà giornataccia sulle regioni settentrionali. Grazie. Piogge battenti, tanta neve in montagna, ma addirittura in Piemonte potrebbe nevicare fin quasi in pianura, magari anche Torino potrebbe vedere qualche fiocco, figurati te. Poi tra pomeriggio e sera peggiora anche nell'Italia centrale, quindi anche lì arriveranno delle piogge. Domani si salva il sud, dove nel complesso sarà una bella giornata, ma in compenso domenica anche le regioni meridionali verranno raggiunte da questa perturbazione, quindi mal comune, mezzo gaudio, ce n'è un po' per tutti. Attenzione, perché domani al nord le piogge potrebbero essere anche piuttosto insistenti, anche in Toscana potremmo avere precipitazioni importanti. Però guarda, giusto per farmi voler bene, il prossimo weekend probabilmente è veramente bello, quindi ti facciamo mettere la firma, Paolo, perché qui il complotto c'è il complotto. Uno quello lavora tutta la settimana e poi dopo pioggia nel fine settimana. Comunque buon tempo a te, Paolo Corazon. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao caro, e ci risentiamo alle 22.